8. Ascolta e controlla. 1. I ragazzi che cosa hanno fatto ieri sera? Hanno scritto una lettera. 2. Che cosa hai detto ai tuoi amici? Non ho detto niente. 3. Che cosa ha letto Luigi? Ha letto una rivista di politica. 4. Che cosa ha detto alla mamma? Ha detto: ho risolto tutto e bene. 5. Hai finito il lavoro? Sì, ho finito e ho messo tutto in ordine. 6. Chi ha tradotto questo libro? Non so chi ha tradotto il libro. 7. Puoi dire chi ha rotto il vetro della finestra? Non lo so. 8. Perché non hai chiuso la porta di casa? Perché ho perso la chiave. 9. Lui ha corso o ha fatto una passeggiata? Ha corso 2 ore. 10. Lei che vestito ha scelto per la cerimonia? Ha scelto un abito elegante.